I ragazzi stanno lavorando molto duramente in questi giorni, è in atto un lungo, un complicato processo di divisione in gruppi per argomento, per nazioni, per lingua. Le lingue parlate sono molte, è necessario avere molte traduzioni dall'hindi, dall'arabo e così via. Il rapporto con questi ragazzi è partito in maniera molto diversa secondo le diverse realtà. Alcuni ragazzi indiani che si trovano adesso in questa sala sono stati proprio liberati da condizioni di lavoro in schiavitù, altri ragazzi rientrano nei progetti che Manitese porta avanti nel sud del mondo, progetti che hanno come termine ultimo, come fine ultimo, la definitiva liberazione dal lavoro infantile, ma che come posizione intermedia possono anche utilizzare il lavoro infantile come momento per incontro con questi ragazzi in vista di una loro liberazione. Le ONG hanno un ruolo di primo piano per risolvere il problema del lavoro infantile, in quanto sono degli agenti che sono presenti molto molto a contatto con le realtà locali, spesso sono le uniche organizzazioni che sono in grado di arrivare nei villaggi dove il problema del lavoro infantile è particolarmente grave o nelle sterminate periferie urbane. Quindi è necessario sicuramente rafforzare il ruolo della cooperazione internazionale, che deve essere dotata di una quantità di fondi maggiore. L'Italia si è già da molti anni impegnata in numerosi summit internazionali a dedicare lo 0,70% del PIL alla cooperazione internazionale, invece adesso se ne sta dedicando solamente lo 0,15% e la frazione è in diminuzione. E poi questi soldi della cooperazione internazionale devono essere dedicati soprattutto a progetti di sviluppo sociale e di sviluppo dei ragazzi in particolare, come con ad esempio progetti educativi. E all'interno di questi progetti le bambine, le ragazze devono essere il target principale, perché sono quelle che sono maggiormente svantaggiate rispetto anche ai loro fratelli maschi.